Tutti quanti prima o poi abbiamo fatto la pensata di mollare tutto, andarcene a svernare in un paese tropicale. Chi non se lo può permettere nemmeno come sogno, come me, come voi, come tanti di noi. Comunque l'avrà fatta la pensata di mollare tutto, andare a fare in culo per il mondo. Sì, come ero abituato a fare dentro al mio quartiere, però con un orizzonte più profondo in fondo. C'è sempre stato poco da discutere, troppa poca merda per non fa pagliocco. E nessuno mi potrebbe biasimare se me ne volessi andare, dopo che ho passato quello che ho passato, dopo che sono stato dove sono stato. Per 40 anni ho resistito, ho fatto quello che ho potuto, anche di più, e mo non ce la faccio più. Ma lasciando pappulare ancora un poco sto ragù, a quanto pare faccio ancora numerini che non sono niente male. Con le parole sul beat, se ti piace su me, cavi in giro ne detta, io cade se fatte, chi non se ne fotte se ne pochi. Penso che non me ne andrò, la risposta non ce l'ho, ma penso che mi tratterrò ancora per un po'. Suonare via, via, via. Il mio cane ha bisogno di me. Voglio vedere come va a finire. Questo paese vuole un bel finale. Io casomai vorrei contribuire. Qualche cosa troverò da fare qua. Mi trovo bene qua. Piranhanza campa. Tra i viali di cemento. I bomba respira. Penso che non me ne andrò. La risposta non ce l'ho, ma penso che mi tratterrò ancora per un po'. Penso che fondamentalmente il cesso, chi non te lo dice nel frangente mente a se stesso. Improvvisamente chiedi che è successo, vedi intorno uno scenario diverso, dallo svario tu ti senti perso. Difficilmente è più complesso, lavora muri e vivi compresso, al suicidio già hai pensato spesso, ma Dio non ti perdona lo stesso. Qui in mezzo, se tu vivi ma non stai sul pezzo, hai da pagare mille rate sommerso. Serate sempre uguali da un pezzo, cerchi un senso. Ammesso che mo mi trattengo, cerco uno sforzo più intenso che duri nel corso del tempo. Tramando mando e tramo per l'intento, scempio che propone opere senza senso. La coscienza fa fesso e contento, ti ho spento il dissenso presunto, la posta torna in quel punto. Penso che non me ne andrò, la risposta non ce l'ho, ma penso che mi tratterrò ancora per un po'. Penso che non